Check mine without cash. Check mine without cash. Without cash. No money for sex. Sono un'incertezza ad averti moglie, perché sono malato, ma la penna che ti merita, con la frase che Dio mi ha instillato. Sono quella vecchia balera, ma fra 100 anni, quando i giovani saranno vecchi e quando i miei pezzi suoneranno. Sono quel giovane che ancora duole del male che Dio gli ha dato, ma che di tanto in tanto lo ringrazio per la grazia di un verso troppo giusto. Ed un ragazzo, un saggio, e di 30 anni 100, per dirti t'amo come lo fa un poeta di te mai sazio. Sono le tue labbra che amo stanche con le mie, che evitano di soddare materiale, ma ti vorrei insufflare spirito di musa, quello che in cibo di cui te, angelo mio, ti vuoi cibare. Sono francamente tuo per sempre, francese è il dono del mio amore, di morte in dono, nel dono della dolcezza, frastuono del tuo nome, fratello della tua notte, quando i tuoi sogni accarezzo addormentando mi con grande grandezza del tuo nome, risorgendo solo solitudine, risorgendo solo. Sono quel matto che ti chiede l'elemosina a qualche bella signora di qualche melodia la sera. Ah, qui vende l'estasi d'una rosa che rosa non conosce amore, perché il denaro la divide da tutto, da tutto, da una sposa. Quel denaro che divide tutto, tutto, da una sposa. Quel matto che Dio gli ha dato in dono l'arte, che non conosce parte, che sogno a volte stagna nel lago di pensieri di povera arte. Sono la suerte che si perde, sono il padre che non ritrovo, perché non lavoro se non ad una poesia che ti dedico in tono, e di tuono suarte amaro di mondo. Sono quel sangue della vita che nessuno beve, quel boccone amaro che il cuore preme, e quel respiro che muore, il salto che poi sviene. Sono il salto che poi sviene. Sono la canzone dopo quella che non appari. Sono le parole che non dico se non tra frasi di poeti, ma con loro non baratti. Emozioni. Sono la canzone dopo quella che non appari, sono le parole che non dici se non tra frasi di poeti, ma con loro non baratti emozioni. Sono la canzone dopo quella che non appari, sono le parole che non dici se non tra frasi di poeti, ma con loro non baratti emozioni, non baratti emozioni. Sono quella vecchia balera, ma fra 100 anni, quando i giovani saranno vecchi e quando i miei pezzi suoneranno. Sono quel giovane che ancora duole del male che Dio gli ha dato, ma che tanto in tanto lo ringrazio per la grazia di un verso troppo giusto, che fa due ragazzi un saggio e di 30 anni 100, per dirti t'amo come lo fa un poeta di te mai sazio. Sono francamente tuo per sempre, francese è il dono del mio amore, frastuono del tuo nome, fratello della tua notte, quando i tuoi sogni accarezzo addormentandomi con grazie del tuo nome, risuonando solo solitudine. Sono francamente tuo per sempre, francese è il dono del tuo amore, frastuono del tuo nome, fratello della tua notte, quando i tuoi sogni accarezzo, addormentando con grazie, grazie del tuo nome, frangente della mia solitudine eterna. Sono la canzone dopo quella che non appari, sono le parole che non dici se non tra frasi di poeti, ma con loro non baratti emozioni. Sono la canzone, quella che non appari, sono le parole che non dici se non tra frasi di poeti, ma che con loro non baratti emozioni.